Perfetto. Ma Natalino, ripresa ti sei? Stamattina sono uscito, ma... Ora sono qua ancora così, un po' così. E vabbè, c'era quella giornata, quindi... Cosa hai detto, Cla, che non ti ho capito? Per la televisione, no? Che mamma mia... Ho detto c'era bella giornata, già non ce n'era freddo. Ehi, lo so, stamattina vado a mettere in moto la macchina e non mi ha messo in moto. Sì, tanto c'è che non ha dato una guida. Di più. E come mai? Allora, la batteria che non è più perfetta. Ah, la batteria già è perfetta, sei nuova. Ma come no, ma c'è molto. Ehi, già fatto, mi ha staccato pure la cosa adesso, la massa. A chi ora da un bel di tempo fa, ma allora è logico che l'orologio, le cose di dentro, te ne scaricano la batteria. Si conferma, è così, e anche la mia l'ho cambiata quest'anno la batteria, lo stesso. Prima avevo una batteria di trattore che mi avevo tirato da un trattore in campagna. Addirittura? Sì, allora già andati forse a Bappacchi. No, questa l'ho comprata nuova, la batteria sua a Pantanfer. Vabbè, ma usala comunque la macchina, non lasciare così ferma, spostala ogni tanto. E sei rumarato, ma è tutto, cosa la trattavo, non riuscendo a casa, sono due chiedi così. E vabbè, adesso te le prendi e la usi di nuovo. E più dopo se c'è la in punta di qua, e non dobbiamo venire mai al parcheggio, domani a mangiare un secco di cicchizzo, a vedere se c'è un buco a punizia, così nei occhi. Ciao Eugenio, buonasera. Le 6:05. Ciao Eugenio. Buonasera. Lo sento basso a Eugenio. Mi sa che non lì è. Ehi, macchina, dove sei oggi? Sì, è dentro il porto a torre, se cosa vuoi Natale? Ah sì, io arrivavo a Santiago Nove, dove entro il porto a torre, con la macchina mia. E vabbè, ma lui passa lì al corso sotto, capito? Una zona un po' l'onfia. Quando passa lì lo sento basso anche io. No, è cappa. A Trabacco stai andando? Oggi vieni. No, va bene, va bene. E bisogna fare. E vabbè, se non trovai tu che trovarsi, dai. Lì ci vuole sì. E beh, con la bolla non ce la fai, con la pompa. Con la bolla d'acqua non ce la fai a metterla a livello. E ci vorrà qualche spessore, qualcosa. A sollevare, a girare, boh, e non. Sono davvero, non so cosa dirti. I soli li fanno con la pompa. Con la bolla a pompa, capito? Di solito quelle cose lì, poi bisogna vedere, capito? Vabbè, magari c'è qualche dislivello e non ce la fa leggere. Gappa, gappa, avanti, Natali. Sì, bravissima caffavita là, in Aravona. E mia moglie dice così, io fino adesso mi sono salvato, però devo stare attento perché se mi contagia guai, capito? E non c'era lei che mi ha contagiato, ma cremato. E purtroppo è così, stanno a contatto, è un casino. Conce, fa un caffè invece. Ma come si è sentito? Ehi, guarda, l'ultima volta che stavano facendo lavori a casa, chissà se hanno finito. Ieri è entrato, 5 minuti e poi se ne è andato, ai lavori forzati dei pazzi. E vedi, mi ha detto che stavano facendo lavori a casa, cucina, tutto, capito? E beh, è giusto così, deve lavorare, deve dare una mano, che se no avrei l'aiuto alla mamma. No, la zia è che lo pone ai lavori forzati. Ah, la zia, vabbè, Alicia, mamma mia, gatto pardo. Sì, gatta, è più fea di me cugina, gatta, ma è un gorilla. Ciao, G, ciao, ci sentiamo dopo se coincide, dai, le prossime. Non la conosco io, non ho mai vista neanche fotografia, E neanche io, ma lui l'ha detto. Sì, vabbè, lui lo dice perché lo fa lavorare, capito? Se no ci manca la zia, è molto, ecco. Gappa di Ross, metodo positivo, metodo più rotto, non si è sentito? No, io non ho sentito nessuno, quando ha detto. No, io ero qua, computer, sto ascoltando un po' in HF, poi ho chiamato qui e risolto tutto. Gappa. Ma quello non lo vedo, lavori in corso. In grembiule, passami quello, passami quell'altro, dammi la pizza, il cacciavite, lasci scendere i volare in gabbia. Allora, manda calce. Manda calcina. Io adesso quando entro la faccio a pizza. Allora, lascia di sta poverino che deve trabaccare. Adesso magari sta ascoltando, che se ne sta ridendo. E poco da ridì qua, vai a travagliare, vai. Uiaia, come fanno a dirci? Non ce la ce ne usciamo. E via, andiamo in giro mia moglie. Tanto che va a casa. Oggi no, oggi a Domo Pac. E infatti, credo che ci sia mangiando questi. Perché dopo può prelevare, ero senza soldi pure. Va. Sì, soldi vanno e vengono. E quello sì, ma più vanno che vengono. Io vabbè, stabile a luce. E poco ci mettono a entrare i soldi, ma a uscire 5 minuti ci vuole. Ieri l'ho messo così per pendenti, ieri non c'ero tutto il giorno, ieri sera ho tutta la sera su, non usci, ma è la greffa, è parita, non va nessuno, guarda, hanno giocato a Raiana, ma dai ciuccani, mamma mia. Ma viene poco ieri senza voti, no? Ma si ha la casa piena. Sono tutte le colleghe di Laria che fa la cena qua. Capite? Infatti io e mia moglie ce ne usciamo domani. E invece la casa a disposizione, c'è una benzina. E vedi di rientrare nel disegno senza voti domani. Filippo! Mica c'è Massimiliano, qui! Con il gatto sotto la televisione, vedi domani niente per travolti, ui. Già visto si fa così a beffa. No, e tu qui si rifaccia a cenare. Assolutamente, guarda. Domani vediamo le belle. E tu vamo un filmino, non dal mio. Ieri è venuto, quando l'altra mattina è venuto quello della Tecnocasio a fare due foto. No. Ho avuto le gare fuori alla ringhiera, la gimmagia si butta la ringhiera e tutto. Intanto non ha messo ancora rete di voi. Si è scioccato, io dice Tecnocasio, ma che allucinante sto piano, no. Vieni e te lo do a portarlo a spasso a vedere, con una bandiera. Cazzo al mio gli hanno regalato, pettorina e guinzaglio nuovo. Regalato una signora a me. Oh, il mio è un bel grande, se ho capito il mio è quello extravacci, anche se lo metti al minimo non è stato anche tu. Ma io non ne ricomparava, chi li fasciava? Allora che mi ha giubilato in piedi e mi l'hai fasciato che era minori. Avranno lo tocca. No, il mio non so, mi ha rotto, perché l'ha morsicchiato. L'ho lasciato in terra, si è presa a giocare e l'ha fatto tutta pizza. Se no non ce l'ha fatto, proprio un bel grosso. Prima adesso lo prendo guizzando quello più grosso, perché cioè, è più grande, ci viene uno fine, non si sa mai se si sganci, io ne prendo uno grosso. Oh, è venuta gente là, sono più spazi al limite. Sì, io sono qua, di voi, va. Paura Bassendici. Cosa oggi? No, ma ne si, deve entrare la gruta, sento quanto arrivi basso, vabbè, ma se sia al corso, se sia al corso, non corso, lì ci vuole quel linearetto. Poi ce l'abbiamo in casa uno piccolino a 50 euro, a Chianti Rubini, nuovo nuovo, e tutti i 50 euro che fai ammontonati te ce ne cicciamo in culo. Fine, la G, cazzo, sempre venendo in miseria, sì. Vabbè, poi ce l'hai uscito. Prenditelo, che ti serve, quando sei così in difficoltà, lo sai come ti funziona, alla grande, sono quelli a mo, 7747, sono fenomenali per la macchina, sono sino a 10 watt, sino a 10 watt, 20 watt, con 20 watt in piazza esci così, stai ragionando con quello furgone che quando passava in piazza mi arrivi a Santiago Novi, la piccolina stai usando, per quello che sei calato, perché le ultime prove che avevamo fatto con quella grande arrivavi molto meglio la piazza. Allora va bene, ma il fatto che a te per la macchina ti serve un lanierettino, mica è piccolo, non è ingombrante, non è assolutamente ingombrante, è piccolino, capite? Però tira fuori i suoi 100 watt, 80 watt, che sono sufficienti. E così c'hai il impianto buono anche in macchina, quando esci da qualche parte, vai al Alghero, vai a Sintino, non ti sentono, tic, a vedere se ti intendono, anche con quella piccola. Se c'è già un doppio rumore con l'antenna piccolina, lo stesso, anche lui c'ha, arriva una bomba che andrà attacca. Ehi, fai finta che lei spese per altre cose, c'è il bigellucci. È una cosa che serve in macchina, capito? Ci vuole sempre, non si sa mai, se in zona d'ombra non ti sentono, hai bisogno di qualcosa, attacchi e ti va in DD. Controlla, perché se è invertito destra o con sinistra allora non ti regge, c'è differenza, capito? Ciao genio, ciao. Che? Metla. Beh. È tanto, non c'è nessuno. No, tutta la sera che non c'è nessuno oggi, tanto sono natalino. E basta, io stavo facendo così, ascoltando da altre parti e basta. Nessuno. E mi sono appena arrivato a casa, che devo fare una cosettina, tra un po' vado a mangiarmi la pizza con la mia ragazza e un paio di amici. E poi niente, fai tra una cosa e l'altra, se tutto va bene a luna sarò a casa. Se è prima è meglio. No, io oggi no, domani siamo con la mamma, proprio andiamo a mangiare la pizza con mia nipote e altri amici. Qua a Sassari però, senza allontanarmi molto perché non la Giovanna sa guidare, tu va, capito? Farebbe più, un bicchiere di birra in più, e ti ingessa, se ci sei qua, e via, capito? Domani però, oggi a casa. Ah, io sono due passini, se fosse per me, cioè, se vuoi un po' su un imbragazzo con due bassi, forse un po' più di bassi contate su quella di vinto. Il discorso è che poi io devo prendere la macchina, accompagnare a lei, a quei due miei amici che abitavano lì, in quella zona. E niente. E poi me lo devo salire, Mari, mi vai Mari, ho sempre avuto un bicchiere di birra di troppo, sono fregato. No, non conviene. No, ma anch'io non bevo però, cioè, si sa mai che anche un bicchiere di birra, un digestivo, ti fregano. E quindi siamo qua a Sassa, capito? Già, così può guidare anche Anna, insomma, ma io non sono più un grande bevitore, quindi non me la fottivo un paio, sto per uscire, per andare a prendere una boccata d'aria, c'è così pentanato a casa. Beh, non posso immaginare. Vabbè. Alle 3 abbiamo appuntamento. Ma ci vuole sta pizza. Però quella mia pizza che è grande, mangiamo la pizza, va. Però via. E poi niente. Così, un paio d'ore così a stare con gli amici. Ascoltare un po' di musica, karaoke. che c'è. Guarda, forse per me me ne sarei rimasto a casa volentieri, ma purtroppo devo salire là a fare appunto la mamma, è un casino, è quello che mi frega, se no non sei riuscito. Sì, mi fatti. No, io proprio non ho voglia, di uscire, ma è molto difficile che io esca in settimana, capisco. No, posso uscire di sabato, manco di domenica mai, perché poi lavoravo, capito, quindi non sono abituato. Adesso usciamo domani. E via, si abbiglia le luci. E via, andiamo un po' a cenare. E via, che hanno già portato, sto rientrando adesso. Ecco, avanti. Ciao, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Luca, c'è qualcuno altro? No, nessuno. Mi sto provando questo qua, ero da un po' che non lo facevo andare, questo microfono. Mi ascoltate bene? Molto cupa, molto cupa. Questo è quello adore, vabbè, questo bisogna fare tutte le regolazioni, hai detto, va, c'è un poco, qua adesso un po' meglio questo. No, stai peggiorando. C'è solo bassi, non c'hai alti. Davvero? Aspetta un po'. Vabbè, dai, vedi un po' così. No, vabbè. No, non mi piace. Vabbè, vorrei avere qua a pensare quando ho qualche attimino di tempo, ma vado fuori frequenza, mi ascolto col ricevitore, faccio tutte le regolazioni di questo, è tutto complicato da avere. Ma il livello microfonico è basso di questo? No, mettere il livello microfonico va bene. Però non ha tonalità, troppo, c'ha questi medio bassi, molto, non mi piace, bisogna regolarlo bene, roba. No, io l'85 l'avevo regolato perfetto, era una canonata, col parametrico come quello lo stesso, però è andata molto molto bene. Avanti tu. Sì, confermo, è cupo, ciao Roberto, come cupo è. Ti ha chiamato mio fratello? Mi sembra avanti ieri, sì, forse avanti ieri, adesso dice che ne parla, quello là dice che non ha fretta, adesso vede, buh. Cosa hai cambiato, baracchino? Come? Baracchino è cambiato. No, ho messo l'Adonis, sto usando un altro microfono. Non ha visto, mi arrabbio. Ma si sente adesso? Mi arrabbio, bella, forte, bella. È sempre la stessa, ho solo modificato l'equalizzazione. Adesso è un'altra cosa, adesso non ho più cupa. C'è le tonalità medio alte, cos'hai sollevato? I 500? I 1000 ho sollevato un pochettino, i 2000, ho abbassato i 500. Esatto, boh, lascialo fare così, è regolato bene adesso. Va bene? Sì, hai visto, hai toccato due fesserie e l'hai messo a posto. Vabbè, diciamo che sono molto sensibili questi apparecchi, questi microfoni. Infatti ho detto, mi dovevo solo appentare, boh. Ho fatto adesso così a orecchio, ho detto, mi avete detto che cupo, ho tolto un pochettino di ho dato un po' di acuti, di medi, ho abbassato appena appena i bassi, e mi dite che sta già andando meglio. Va benissimo, guarda, bella, forte, chiara, va bene. Prima era un bel cupo, era come se avessi una muleta nel naso, mi detto, come... ho capito, Cosa, Robè, scusa? No, mi ha detto Luca che era brutta la radio, no, io già sono abbastanza pignolo di queste cose, avete fatto bene a dirmelo, adesso dice che va molto bene, meglio Luca, è più comprensibile. Guarda, sei quasi a livello del 60 adesso, con una modulazione bella corposa, con le tonalità medio-alte, va benissimo, lascialo così, non lo toccare. Ehi, anche a livello microfonico va bene? Sì, alla grande. Ehi, ok, allora lo tengo così, dai. Non c'è nessun altro qua su questo canale? Tutta la sera non c'è nessuno. Tutta la sera non è entrato nessuno, solo io, Natalino, Luca e tu. Basta. Io. Che si dice di bella? Ne va di freddo? È prevista una passata di freddo da domenica, mamma mia. Oh, ascolta, allora io... capisco una cosa, allora, questo alimentatore, io sono un alimentatore di computer da qualche anno, che me l'ho autocostruito io, aiutato sempre tramite YouTube, no? Però come fate a sapere quanti ampere dà? Come dice? E a Roberto, come fate a sapere quanti ampere mi dà? Vabbè, per il computer normalmente sono 500 watt, fai 500 watt diviso 12, vabbè più di 12 perché la tensione che ti dà il computer sono più di 12 e ti calcoli quanti ampere riesci a dare. Ah ecco, così bisogna fare. Se da 500 watt, normalmente sono da 500 watt il coso, ma non diciamo dovremmo dare almeno 7-8 ampere, buoni. No, Robert, vado in banda e fa un rumore, fa così fa. Vabbè, ma c'è da dire che questi switch non hanno filtraggio, non sono fatti per queste cose, ci sono dei rientri radiofrequenza, vogliono schermati bene bene quelli lì, perché poi ci vanno delle bobinette di ferrite dove c'è l'alimentazione, se no ti fanno dei rientri. Infatti io switch che non ne uso mai per quello, solo magari a basse potenze, con pochi watt, magari non succede niente, ma se inizia a sollevare appena più di un certo numero di watt si crea solo problemi. Io ho sempre avuto tra gli alimentatori tradizionali e la trasformatore, sono indistruttibili. Ma qua ha fatto 500 diviso 2 ci dà 41,6666. Sì, teoricamente, vabbè, ma non è proprio, diciamo, perché poi c'è la dissipazione del coso, magari ti darà, non lo so, 10 watt, 10 ampere continui, ma è molto grande come dimensione. Mi hanno dato il computer fisso le robe, quei alimentatori, quelli rettangolari, sarà, non so, 20 centimetri, 30. Vabbè, diciamo continui ti posso trarare, non lo so, una decina di ampere, non lo so, andiamo a vedere. Io ho comprato uno di quelli. No, Robert, 15 centimetri, io avevo già occhi di 230, ma 15 centimetri per 15 centimetri. Ma da quanti watt è? Perché ci sono da 500, da 400, da 300 watt, ma ovviamente sono watt massimi o watt continui, perché non lo so, non c'è scritto niente. 500 watt, vabbè c'è sotto, lo faccio a vederlo. Comunque da 500 watt. Quindi fai 500 diviso 2 perché continui sarà 250, perché loro calcolano sempre la potenza massima di picco, diciamo. 250 diviso, calcolati 13-14 volt e ti dà la corrente massima che ti può dare. Poi togliere almeno un 40%, io penso sarà una decina di ampere effettivi quello, anche qualcosa in più magari. Ma ecco, vabbè, ma sai che devo fare 500 di... ciao Giulio, scusa un attimo. Devo fare 500 diviso 2. Allora, 500 watt sono sempre massimi, sono potenza varia istantanea che ti dà 500 watt all'accensione, però continui male sarà un 250 a metà, perché la potenza di 500 diviso 2 dovrebbe essere più o meno, io sto dando delle indicazioni così a occhio, per cui fai 250 diviso 14 volt, perché quello ti dà circa 14 volt, stai attento alle tensioni, per quelli non ti danno 12, ti danno un po' di più di 12, diviso 14 e ti daranno, penso un 12 ampere più o meno. Avanti Giulio. Ok, dai, che sto uscendo subito, devo andare in campagna che abbiamo la rottica. Ciao, vabbè, se hai problemi per il montaggio, o se l'hai già fatto, non lo so, o lunedì ci possiamo vedere. Guarda, ci credi che non ho avuto neanche un attimino di guardare, abbiamo solo spostato ad esempio boost in 5 a muoverla, tu non hai idea giù cosa vuol dire a spostare quella roba, se ne è scesa la mazza, poi è venuto col camion piano piano tirandola, ce l'ha appoggiata in terra, ma per muoverla 5 persone non ce la fai, con 6 ci siamo dovuti mettere per spingerla, perché poi il terreno non era neanche bello liscio. Comunque quando c'è un attimino di tempo con calma mi dai una dritta, dai, anche se mai ci riesco ad arrivare anche io, però è meglio che lo faccia il padrone che me. Ok, soprattutto per quando la metti in funzione, in modo che il nastro non raschi sulla carcassa, diciamo, là, sul piatto. Va bene, d'accordo, va bene. Ma se hai problemi ne avvisi e salgo per la regolata. Ok. Poi ti segno anche come si piega il nastro, eventualmente se lo devi portare ad attivare qualche volta, eccetera. Ti insegno, ti dico come il segreto per piegare il nastro, perché quello sicuramente non ci riesci né tu né nessuno in officina, sono sicurissimo. Non perché non siete persone che non l'avete mai fatto, solo per quel motivo lì, non perché siete donne, siamo ben chiaro, ci mancherebbe. Non ti preoccupare, dai, la mano del maestro ci vuole sempre. Grazie di nuovo Giulio. Ok, ti rilascio a Luca e a Claudio. No, mi saluto, dai, sto andando in campagna, abbiamo una rossita tra fratelli. Ci sentiamo, ciao. Sono appena venuto qua per prendere le cose, ma se c'è qualcuno per questo. E ho sentito a te e a Luca, no, a Claudio non l'avevo sentito ancora. Proprio dai, ciao Luca, ciao Claudio, se stai ascoltando, ciao Roberto, alle prossime. Il telefono è sempre aperto in tal caso, Roberto, ci sentiamo nel prossimo, ciao. Ah, ti devo dare anche una cosa lì, quella è stata dimenticata, la stradatrice, te la ricordi? La che cosa? La stradatrice, ti ricordi che te l'ho fatto vedere, vabbè che quando lo potevi attivare c'era la strada lui, però viene considerato, c'era loro, non se ne può vedere più, non mi sento almeno, non mi interessa. capita più. Ehi, vabbè, non c'è problema, dai, quando ti capita in zona. Ok, di nuovo, buon divertimento e buona mangiata, Giulio. Ciao, ciao. Ti rilancio Luca. Sì, ciao Giulio, ciao, buona rostita. Mi raccomando, mangia poco, se no a voi è un casino. E io lo stesso, mi ha ancora 10 minuti, un quarto d'ora, e poi vado. Mangio una bella pizza, una bella margherita, buona, buona. Dove le prendi dal monte Luca le cose, le pizze? Ah, me lo vedi salutare Giulio, sì o no? Ciao Giulio, buona serata, alle prossime. Ciao qua, ciao, buonanotte, sai, vado, che mi stanno aspettando i fratelli. Però si mangia di tutto, mi sta mettendo la caviglia e si mangia. No, che sto scherzando, stanno appena incominciando a accendere il fuoco, per cui. Vabbè, stanotte oggi, diciamo che oggi si faranno un po' le ore piccole, credo, perché siamo un'altra romata di bastoni. Ci sentiamo, ciao, ciao a tutti, ciao. Scusate se ho interrotto il questo, ciao. Ciao Giù, ciao, già sono così vedi, avanti dov'è? E di nuovo ciao Giulio. Luca, ti stavo dicendo, dov'è la prende la pizza tu di lì al monte? Lì, da Nanni Spizza, da Marghinotti. Claro, ti avevo rilanciato prima, tu non hai ripreso, Ma avete rilanciato? Io non ho che bugiato. Cosa stavo dicendo? Quegli alimentatori ne ho comprato uno io, già fatto. Ma no, dai cinesi, li vendono, l'ordinato, è brutto perché è brutto, però c'è una potenza allucinante. L'ho messo dietro, col tavolo un pochino più lungo, ed è un 50 ampere, 700 watt. Ma è una cosa allucinante, io vedo 200 watt di portante fissa con l'HF, manco il pelo le cuoriche. Dai, devo sistemare quello ZG, non so che problema abbia. Cioè lo dico ogni volta a regolare, peccato, ma se mi avrei usato quello, ma non sono sicuro che Baracchino non ha problemi di niente. Quello che mi avevi regalato tu, ha problemi. Ma ho anche oggi pagato il suo switching così, da 50 ampere ti sto dicendo, da 50 ampere. Devi metterti il capo di alimentazione perché trovando sempre il capo di alimentazione. Ho comprato la Elton già pronto, spina industriale, e va da 12 a 15 volts, l'ho regolato a 13,8, porta 22 euro spedito, 22 euro, capito? 22 euro spedito, 50 ampere, ma ti ripeto, è meglio di quello da 60 ampere che ho io della Proxer, di fatto ZR0. Vai Roberto. Ma tu che alimentatore stai usando, Clark? Io adesso sto usando sul 440 e il 430, c'ho il Proxio da 60 ampere. Ok, quello con due strumenti, quello grande da 60 ampere. Mentre sugli HF c'ho quello da 50 ampere, di quelli che sta dicendo Luca, di quelli tipo computer, però questi sono comprati. L'ho comprato su internet una ditta e li vendo. L'ho pagato 22 euro spedito. Se 50 ampere, ma ti sto dicendo, io ho la radio da 200 watt, HF, la metto la potenza a 200 watt e manco il pelo di cui. No, quelle computer hanno potenze assurde, però state attenti alle tensioni perché ne danno un po' di più di coso, di quello nominale, perché questi apparati non devi superare i 14 volt, diciamo di alle 13,8. Quindi adesso io ho col digitale, l'indicatore digitale, che c'è un multimetro, l'ho abbinato per sicurezza, sta dando 13,62, ma non bisogna andare oltre i 14, se no fai danno. No, il mio è regolabile, c'è la regolazione col cacciavettino induttivo, io ho messo il tester, capito? Loro mi avevano detto già regolato, però io prima di attaccare la radio ho messo il tester e l'ho regolato a 13,5 e a 13,5 è perfetto, non si scappa, capito? Mentre il Proxer invece è regolato a 13,8, capito? Però la tensione lì si può regolare dall'esterno proprio facilissimo, perfetto, c'è la ventolina, guarda, perfetto, sto dicendo, no, una potenza allucinante quell'alimentatore, meglio di quello della Proxia che ha giubato 250 euro, capito? Lui l'ho pagato 22 euro spedito ed è una canonata. No, vabbè, diciamo, come dimensioni e peso li fanno 10 al vero a quelli a trasformatore, quelli diciamo classici. Anche però l'unico problema sono le scariche, per dire, se c'è un temporale, una cosa del genere, uno sbalzo di corrente li brucia immediatamente, non hanno grande resistenza perché sono molto critici come tipo di concezione. Finché vanno sono eccezionali, però se succede qualche piccolo sbalzo di corrente o qualche cosa che scalda qualche componente, se non ampli, non c'è niente da fare. Quelli a trasformatore invece sono un pochettino più robusti, hanno quel vantaggio, ma lì non hanno la stessa concezione come stabilità e cose del genere di quelli come si chiama, di quelli digitali, però resistono più, per dire, se gli dà una sovratensione, cioè se gli dà un carico più alto non succede niente, al limite ti scalda un pochettino, vedi, con quelli switching se gli dà un assorbimento più alto di quello nominale, vabbè, tu mi stai parlando di amperaggi e di correnti altissime, per cui non arriverai mai a quelle tensioni, cioè a quelle correnti, però se gli chiedi appena di più, comunque li bruci. No, non gli chiedi, è singolo, ne ho due io alimentatori, praticamente ne ho tre perché c'ho il PS50 sulla della Kenwood, capito? Quindi quello però è sulla linea Kenwood e basta, solo sulla Kenwood. Mentre sugli HF c'ho quello lì da 50 A, il Proxel mi alimenta i due gemellini da 100 W V1, capito? Ma ti sto dicendo, schiaccio contemporaneamente la portante, sono circa 200 watt, non manco il pelo le cui caro, beh, nulla, è che non c'è strumento né niente per vedere, però sono dei buoni alimentatori, funzionano bene, quindi tu, anche che stai, quindi di 22 euro spedito a casa da 50 ampere ed è una canonata, guarda, li trovi su eBay quegli alimentatori lì. Sto guardando, allora, stabilizzatore switching 2,5, qua dice 2,5 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere, comunque già non so quali sono, poi ce n'è uno qua, trasformatore da 24 volt, da 5, no, e comunque già ci sono, livello, dai, ci sono qua. Oh, invece una domanda. Mara. Non è che qualcuno di voi si ritrova un alimentatore 12 volt per un ricevitore di quelli digitali terrestri? Cioè, se non avevo la parte, cacchio, siccome ne ho due, io ci ho TV sat e satellite, quello con la scheda per vedere i programmi, ma ho preso quello nuovo in alta definizione e mi è rimasto l'altro, ce l'avevo dare a mio cognato. Però non mi riesco a trovare l'alimentatore, non è che avete qualche alimentatore, qualche ricevitore digitale a 12 volt con l'ingresso normale, quello tondo? Sì, ma l'alimentatore, quello non alimentatore, 220-12 stai dicendo tu. 220-12, tipo quelli classici che usi per i telefonini, però a 12 volt, vari, almeno un ampere continuo ci vuole, se sono due è meglio. Devo controllare vabbè. C'è qualcosa di quelli che è praticamente per il decoder, dai. È quello che alimenta il decoder, molti decoder hanno l'alimentazione a 12 volt, molti ce l'hanno direttamente a 220, hanno interno l'alimentatore, ma questo qua è a 12 volt esterno. Sì, centrale positivo e esterno negativo, sì. Controllo, vabbè, se c'è qualcosa. Dovrei averla, perché ne avevo un mare di quelli lì, ne avevo un mare, capito? Controllo e poi ti faccio sapere. Ok, no, io ce l'ho grosso, ma non me ne vuoi nulla, serve per ricaricare un analizzatore di spettro di quelli per misurazione satellitare, il Promax, ma è troppo grosso, mica li do la roba lì, a parte me lo uso per ricaricare le batterie di quell'apparato lì, uno di quelli piccolini, un po' più grande di quelli che utilizzi per i telefonini, dai. Ah, scusa, 12 e quanti ampere? Guarda, un ampere è poco, diciamo almeno un ampere e mezzo, se da 2 ampere è meglio. Dovrei avere qualcosa io, ma poi ci dovresti cambiare lo spinotto però, che male lo spinotto, quello lì non va bene, dovrei avere qualcosa io, Robert. Comunque là sto guardando, allora, alimentatore stabilizzato, costa 2,90 euro di spedizione, cioè costa più la spedizione che l'alimentatore. Su quel tempo costa una gangata. Allora, sì. Power input 100-240V 1.0 mi pare 5 PCT ampere massimo 5. 50, 60 Hz, input più 5V uguale 2 ampere. Vabbè, continui con la vendetta. Ho capito, a me sta rispondendo a Luca, dimmi. Allora, qua c'è scritto input 100-240V, poi 1,0 ampere massimo 50-60 Hz, output più 5V, 2 ampere. Più 5 volte, più 5, va bene, è 12 volte, ma che non c'abbia di uscita, ma di dove è quello? Va tranquillo, questo è un, sì, un alimentatore, adesso non mi ricordo se questo alimentava, sì sì, l'attacco è suo dovrebbe essere per decoder, qua, te lo provo subito, si accende il mio decoder, te lo provo subito, aspetta. E io? Qua sto guardando, ce n'è uno, allora. Questo qua è un adattatore stabilizzato, switching 24 volt, 15 ampere, 24 volt, 15 ampere, ventilato, 17,90 euro. Ma comunque non so, mi sa che si può modificare questo qua, questo dei computer, cambio un componente, devo vedere un po' per aumentarlo di ampere. Ma va, che livello, noi cinesi, cazzo. Scusate un attimo al telefono. Switching senza nulla, mi. Ma giù non va 30 amperi io. No, Natali, vabbè, io ce l'ho, adesso a 25 amperi, quello a coso, però non è switching. Quello mi ha regalato Claudio, ma solo che ha un problema che se ne scende di coso, di voltaggio. Io non va 30 ce l'ho. Di quelli dei cinesi, gli avevo fatto l'interruttore pure sto qua, guarda, 30 ampere va. Sì, sì, ci credo, ci credo. Ok, vabbè, perfetto, accende il mio, funziona perfettamente, vai. Lo sto mettendo da parte, ce l'ho già. Ok. Ah, roba, comunque se ne ha bisogno di alimentatore, io ho un bustone, qua. Sono al telefono, ragazzi, un attimo. Non ne ho, mica, da 9, da 12, non mi sapere, mi hanno regalato una busta, te la do, se ti servono, se ti rampo, non importa. No, ci vediamo, vediamo. No, questo per Roberto ce l'ho, te l'ho già messo da parte. Adesso vediamo, se domani ce la faccio, te lo passo, se non lo video. Capo, no, tanto servono sempre. Va bene, va bene, no, stavo provando per vedere perché magari non funzionava, invece accendo il mio vettore, io ho lo stesso vettore esterno per la scheda premium e Sky, capito? E quindi uso quello, e ce l'avevo, e quindi uso quello lì solo per Mediaset premium, però, e basta. Va bene, che ora c'è fatta? Sono esattamente le 8:15, mi ancora 5 minuti e poi vado. Se no poi si incazza, chiede fuori, sui ginocchi, va. Lucia, mi sarei sì. Via come? Via. All'inizio era quasi, avanti un po' più difficili. E via. E poi è uscita una cosa e l'altra. Sentano in 3 anni, ed è 3 anni, cazzo, cosa che non è da me, durava una vecchia. Ehi, vabbè, vuol dire va bene, dai. Sì, Roberto, detto, te l'ho trovato, l'ho già provato, è praticamente uguale al mio, anche il mio da 5/2 ampere, uguale, precisa identica. Vabbè, se poi, se ti capita, poi mi dici quanto è passato in officina e ci mettiamo. Avanti, tanto ti vedo da qua, c'è la luce accesa, avanti lo pure a capo dai noghi. Ma lo so io, avrei staccato il mio, guarda, pur di dare, figurati, vabbè, lo sai, no? Non c'è niente da aggiungere. Sì, è che domani mattina io sono fuori, tu chiudi alle 11, se no te l'avrei passato domani mattina. Ma ci aspetti a lunedì, te lo do lunedì. Ah, non succede niente, non c'è problema, non ti preoccupare. Quando sei in zona me lo passi, dai, lo provo sperando che vada bene. Sì, sì, beh, acceso il mio, se c'hai un decoder di quelli, io c'ho un decoder di quelli piccolini della Panasonic. Sì, sì, va bene, il mio non è Panasonic, è quelli TV Sat, un telesystem. E cazzo ce l'avevo, la cosa strana che l'ho messo da parte, siccome l'ho portato da Torino alla GBC per rifarmi aggiornare il software, che c'erano dei problemi, ogni tanto sento il pava, allora l'ho mandata a questo qua di Alghero che fa queste cose qua sui decoder, riesce a aggiornare, riesce a entrare nei menu eccetera eccetera, dovevo provare, ha detto sì tutto a posto, però ancora non l'ho provato. No, allora vabbè, rettifico, anche il mio è telesystem, è uguale al tuo, quindi è perfetto. Accende il mio e lo fa funzionare perfettamente, quindi va bene anche sul tuo, anche il mio è telesystem, e l'altro che avevo che era, capito? Questo è telesystem uguale. Ok, grazie, allora ti ringrazio in anticipo. Ho sentito l'amico Natalino, non so se mi ascolta, io con questa piccola radiolina, mi ascolti Natalino? Grazie, ascolto. E beh, passata c'è la Romadia. Sì, lo sai, no. Stamattina in più non mi partiva la macchina, un casino, meno male che avevo fatto i capi di lusso. È passato un amico mio che sta qui vicino, ha detto, forse già non entra a sentire, ha già attaccato i capi e subito è partita. Ma sempre la punta o c'è? E via. Quella bianca famosa. Ok, allora di Luca. E là, stavo dicendo, stavo pensando di mettere un alimentatore da 9 e attaccarlo all'MB più 4, fare una modifica, vabbè, ma anche se cioè, non tocco niente, faccio una specie di... o li compro un maschio, come la batteria, questa è la batteria da 9, no? Uno di quelli lo aggancio all'alimentatore e me lo alimento con un alimentatore da 9 volt, cosa ne dici? L'avevo fatto anch'io, ti ronza di fare rumore di alternata, ti ronza, lascia pellicca, costa 1 euro la batteria, quanto ti dura per questo? Ah, ma non è per quello, così volevo fare una prova se andava bene. Tu l'avevo fatto io sull'MB più 5, mi ronzava, faceva rumore di alternata, buon ronzio, strano faceva, perché stai capito alimentando, poi si sentiva, non conviene lui, non conviene, lascialo uscire, non retta manco, lascialo uscire e usatelo così che va benissimo. Poi se lo devi spostare c'è sempre questo cavo di alimentazione a mezzo rebale, è una rottura. E va buona, era giusto così. Ma se, si può sempre fare una prova comunque. Cioè, sono testardo io. Comunque niente, dai, questa cantatura ce li ho. Domani mi metto, la prendo questa busta, ce ne sono, non lo so, boh, sono 10, 12, boh. Mi ha legato la busta tra alimentatori di cose, di telefoni e di alimentatori quelli da 12, da 9, boh. Veramente te li metto da parte, tanto a te ti servono più di me, anch'io non è che siamo di forza. Sì, ma li servono anche a Roberto, ma io di questi ne avevo perché io usavo parecchi con i portatili, poi i portatili ce li ho tutti dentro l'armadio, non funzionano più, quelli vecchi, Betty Jaguar, Icom, eccetera eccetera, sono da collezione ma non accendono più neanche e caricano più, e quindi mi sono rimasti gli alimentatori, capito? E questo è buono Roberto, nuovo, e va bene. Ciao Catalino, e beh, libero sia va, mia voce è veniente, mi abbandoni che? Sì, e cosa faccio? Ti faccio sentire i cavolini? Non è così tutto il giorno, è un casino, già si intende oggi, lei è una bella, mi vuole dei chifi, vabbè, vabbè, no io non ascolto, stavo facendo così, due rubattini ho fatto una crefe, cosa c'era, io non c'era, e poi mi è entrato Luca e Roberto, vai Roberto, e anch'io per 5 minuti provo a mangiare, vai. E anche io adesso finisco, vi saluto, vado a pappare, dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti, buon proseguo di comunicazioni o di mangiare o qualunque cosa dovete fare. Io interrompo, ciao Luca, ciao Natalino e ciao Claudio, dai. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Ru, dai, ci aggiorniamo allora, già ce l'ho io quella roba te la passo. Ciao, alle prossime, buona cena, buon tutto, saluti a casa. Vai Lu. Sì, anche io questo passaggio mi approfitto e vi saluto. Dai. Ciao Roberto, ciao Claudio, ciao Natalino. Proseguimento, buona cena e alla prossima, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao Roberto, Natalino e Luca, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Buonanotte a tutti, a domani, ciao, passo e chiudo, ciao ciao.